Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Ogni domenica alle 12 su Controradio e nel quinto elemento su controradio.it. Contatti restiamoanimali@controradio.it. Con il contributo di Terra Nuova, il mensile di ecologia pratica, da sempre dalla parte degli animali. Buongiorno, buongiorno, 17ª puntata di Restiamo Animali, in onda dal 4 marzo fino al 1 luglio 2012, ogni domenica alle ore 12 su Controradio FM 93.6, 98.9 per una società cruelty free. Con questo programma, come ormai saprà chi ci segue da tempo, cerchiamo di esplorare insieme agli ascoltatori la possibilità di vivere in modo cruelty free, cioè senza infliggere sofferenza e morte ai nostri amici e fratelli animali. Lo ricordiamo perché è importante, noi difendiamo l'idea che si possano accogliere e valorizzare soprattutto le differenze tra viventi, che purtroppo invece nella nostra società tendono a portare a gerarchie e modelli di dominio. Ecco, in questo nostro spazio cerchiamo di proporre le differenze come un'occasione di meraviglia, di stupore e di incontro. Cerchiamo di conoscere più da vicino gli animali che solitamente, purtroppo, finiscono nei nostri piatti e mostrare che invece, nel relazionarsi a noi umani, non sono diversi dai nostri più amati e protetti animali d'affezione. E nella puntata di oggi ondivagheremo tra belle notizie e brutte notizie. Una puntata che potremmo anche definire bipolare. Grande successo della manifestazione di sabato 9 giugno contro la vivisezione e per la chiusura di Green Hill. 10.000 persone hanno manifestato a Roma e questo ci riempie il cuore di speranza, non solo per i Beagle, ancora prigionieri e condannati nell'allevamento lager di Montichiari. Grande delusione invece viene dal fronte della campagna 8 Hours. Il regolamento europeo permette che cavalli, altri equini e suini possano essere trasportati per 24 ore, riposare per 24 ore e poi ripartire. Bovini, ovini e capre possono essere trasportati per 14 ore, riposare per un'ora, essere trasportati per ulteriori 14 ore, riposare per 24 ore e poi ripartire. Vitelli da latte, agnelli, puledri e maialini possono essere trasportati per 9 ore, riposare per un'ora, essere trasportati per ulteriori 9 ore, riposare per 24 ore e poi ripartire. Questi cicli possono essere ripetuti indefinitamente. A nulla sono servite le firme di 1.100.000 cittadini europei che hanno firmato la petizione 8 Hours, che chiedeva semplicemente di limitare il trasporto di animali vivi destinati al macello a non più di 8 ore di viaggio. Ebbene, è inutile penso insistere sul fatto che noi della redazione di Restiamo Animali siamo favorevoli a risolvere il problema alla radice. Se i cittadini si rifiutassero di consumare prodotti animali, questa sarebbe sicuramente la più efficace forma di obiezione di coscienza. Tuttavia, fino a quel giorno felice che noi ci impegniamo per anticipare e costruiamo anche attraverso questa trasmissione, ci sta a cuore anche la sofferenza di ogni singolo individuo animale. E quindi ci indigna particolarmente il fatto che anche un'iniziativa moderata e modesta come questa incontri così tanti ostacoli. Protestiamo verso John Dalli, commissario europeo per la salute e la politica dei consumatori, che ha tradito gli animali non accogliendo questa richiesta dei cittadini europei, e siamo vicini a Christina Blank, fondatrice e direttrice di Animals Angels, che si è battuta per la campagna 8 Hours, per abbreviare i trasporti e per ridurre la sofferenza degli animali. Tra successi e insuccessi condurremo una puntata decisamente al femminile, puntando su donne di assoluta qualità. La dedica è a una vetusta, amatissima scienziata di origini fiorentine, naturalizzata triestina, che il nostro amico David Bindi imita in modo sublime. Chi sarà mai costei? Proseguiremo con l'intervista a una agguerrita donna medico che difende la scelta vegetariana e vegana. Insisteremo con una testimonianza di maternità vegana e vedremo da vicino Wiki, un'oca intelligente ed educata che convive con due umani che le vogliono bene. A questo giro anche il pasto gentile ci sarà servito da una pulzella tutta armonia e bontà, al punto che ci prega di annunciare la rubrica ribattezzandola il pasto sgarbato. A riabilitare il maschile provvedono alcune nostre conoscenze dalla corteccia cerebrale assai inspessita, il nostro filosofo animalista che si è aggiudicato una rubrica fissa settimanale. Giuseppe, archeologo di atmosfere musicali, con quali reperti ambienterai e plasmerai il nostro mood odierno? Visto che la settimana a Firenze è stata funestata dal concerto e dagli spostamenti madonnati, e visto che la nostra redazione pullula di pulzelli, la playlist è dedicata alle prime donne, tutte originali esclusa una non biologica e quasi tutte vegane, anche qui esclusa una. Abbiamo iniziato con una regina di nome di fatto che coverizza in modo magistrale un capolavoro dei Radiohead. Ci sarà un brano dedicato al mito cinematografico biondo per eccellenza scritto da Elton John e qui interpretato da Kate Bush. Avremo modo di ascoltare un prezioso brano da colei che ha intitolato il suo primo album solista Diva. Mentre, visti da vicino, vedranno insieme quello che sulla carta doveva essere il pezzo erotico del secolo, ma che in realtà è il risultato finale, è una canzoncina da educande. Madonna e Prince duettano in una canzone d'amore mentre parliamo di oche. Non aggiungo altro. Ci sarà modo di ascoltare la prima donna un po' rissosa, Sinead O'Connor, con la bellissima e indimenticata cover di Prince e una brillante cover degli Chic per la ricettina. Dire che mancano all'appello sono Chrissy Hynde con i suoi Pretenders ed Erykah Badu che chiuderà il programma. Se volete sapere chi è la prima donna infiltrata e quella non vegana, scoprite la nostra playlist nel blog restiamoanimali.wordpress.com che potete raggiungere anche attraverso la home page di Controradio. Il 12 giugno l'astrofisica più famosa d'Italia ha compiuto 90 anni. Nata da genitori entrambi vegetariani per motivi religiosi, Margherita Hack non ha mai mangiato carne in tutta la sua vita e recentemente su questo argomento ha dichiarato: "Non la mangerei mai, perché mi sembra veramente atroce uccidere milioni e milioni e milioni di animali. È veramente un'ecatombe ogni anno sulla Terra". Sulla sua alimentazione nel 2011 ha scritto il libro Perché sono vegetariana. In gioventù campionessa di salto in alto e in lungo, appassionata di ciclismo, ha scritto anche La mia vita in bicicletta, oggi professore emerito dell'Università di Trieste, direttrice dell'Osservatorio Astronomico di Trieste dal 1964 al 1987, membro delle più prestigiose società fisiche e astronomiche. Margherita Hack sfata ogni malevolo pregiudizio sull'insufficienza dell'alimentazione vegetariana per il corpo e per la mente. Margherita Hack è molto nota anche per le sue attività non strettamente scientifiche in campo sociale e politico. Si è dichiarata pubblicamente a favore dell'eutanasia e del riconoscimento delle coppie omosessuali, tanto da essere premiata come personaggio gay dell'anno 2010. Fiera di professarsi atea, spesso si scaglia contro le posizioni della Chiesa Cattolica e contro ogni altra forma di soprannaturalismo. Non crede agli oroscopi, ai maghi, agli UFO e alle cosiddette scienze occulte. A chi le chiede il segno zodiacale risponde di essere nata sotto il segno del gatto. Nel libro Il mio zoo sotto le stelle ha raccontato la sua biografia attraverso i cani e i gatti che ha incontrato, raccolto, curato e cresciuto, fedeli compagni che l'hanno accompagnata nella vita e nelle ricerche, vivendo con lei in casa così come all'osservatorio. Recentemente ha suscitato clamore il rifiuto di un medico di visitarla per concederle il rinnovo della patente a causa dell'età avanzata. La Hack, sdegnata, ha ribattuto sostenendo di essere ancora perfettamente in grado di guidare la sua vecchia Panda. Noi le crediamo, consapevoli che l'alimentazione vegetariana fa miracoli, anche alla guida. Buon compleanno Margherita Hack, 100 di questi giorni! Notizie, interviste, attualità. Luciana Baroni è una donna, un medico specialista in neurologia, geriatria e gerontologia, con un master universitario internazionale in nutrizione e dietetica ed è esperta in alimentazione a base vegetale. Finalmente un medico anticonformista che non ha paura di criticare apertamente le diete a base di proteine animali e che non nasconde un'evidenza. che chi rinuncia alla carne, ma anche ai derivati animali, può godere di ottima salute. Consiglio a tutti e tutte di farvi un bel giro nel suo blog, lucianabaroni.blogspot.it, dove ho trovato una divertente vignetta. Una famiglia di obesi guarda con aria preoccupata una famiglia di vegetariani, longilinei, e chiede: «Ma da dove prendete le vostre proteine?» Un altro bellissimo post che troverete nel blog di Luciana Baroni segnala che di questo passo avremo 20 milioni di italiani obesi nel 2025. La Baroni stila anche la magra e sterile lista delle iniziative in merito prese dai nostri brillantissimi governanti. La numero 1, una geniale tassa sul junk food. La numero 2, la dieta dei parlamentari, testata per ora solo nel ristorante del Parlamento. La Baroni entra nel merito, stroncandola da un punto di vista scientifico. Noi, nel nostro piccolo, ci auguriamo possa in parte contribuire a ridurre il numero di personaggi così poco onorevoli. Il consiglio per una buona salute nostra del pianeta è una dieta vegana variata come base, e gli alimenti animali derivati da consumare quindi sono a questo punto dei cibi opzionali. Si tratta di cibi che, diciamo, il cui consumo non è necessario per raggiungere l'adeguatezza nutrizionale della dieta, e quindi sono soggetti al gusto personale, cioè nessun nutrizionista deve proporre dei cibi animali con la motivazione che se no la dieta non è adeguata dal punto di vista nutrizionale, perché questo non è vero. C'è la persona che può decidere di mantenere questi cibi nella propria alimentazione, ma ne deve comunque fare un uso limitato, perché altrimenti la qualità complessiva della dieta viene un po', è un'azione un po' peggiorativa, insomma, sulla qualità nutrizionale della dieta, se le quantità non sono limitate. È bene integrare la B12? L'integrazione della B12 dovrebbe far parte di qualunque pratica responsabile, e dovrebbe essere ovviamente un'attenzione nei confronti di tutte le persone, non solo delle persone vegetariane, perché comunque il grosso problema della carenza della B12, più che alla presenza o l'assenza della vitamina nella dieta, è legata alla capacità dell'organismo di assimilarla, e sono molte le situazioni in cui questa capacità è ridotta anche appunto negli onnivori. Domanda che viene fatta tutte le volte che diciamo che facciamo un'alimentazione priva di derivati animali: e il calcio? Ma il calcio è estesamente presente nel regno vegetale, tra l'altro il calcio a partire dai cibi vegetali è mediamente meglio assorbito, quindi in percentuale se ne assorbe di più rispetto al calcio presente nel latte o nei derivati vaccini. Per dire, su 100 mg di calcio presente nel latte, l'organismo è in grado di assorbirne 30-35, mentre per esempio dalla rucola o altre verdure foglie molto ricche di calcio, come può essere anche i cavoli o il radicchio, l'assorbimento può essere anche del 60%, quindi su 100 mg 60 mg di calcio possono venire assorbiti. Luciana Baroni è anche autrice del libro Veg Pyramid, una guida che descrive i principali gruppi alimentari, le loro proprietà e dà indicazioni su quali cibi vegetali e in che proporzione far apparire nella nostra alimentazione quotidiana, al fine di impostare una dieta ottimale per vivere bene, con gusto e facendo automaticamente prevenzione contro le più importanti malattie oggi diffuse. Vai con l'assolo. Signori e signore, abbiamo trasmesso un vagito vegano. La nostra Elisa Moretti ha partorito Valerio proprio quando siamo andati in onda per la prima volta. La sua scelta animalista, etica e non violenta non è venuta meno né in gravidanza né oggi che allatta il suo meraviglioso pacioccone. Abbiamo documentato i progressi di Valerio praticamente a ogni puntata. Troverete le sue foto nel nostro blog, nella sezione Colti sul fatto. Trattasi di bambino vegano in perfetta forma, una forma non priva di sinuosità e rotondità, direi. Elisa ha documentato per Restiamo Animali la sua esperienza di neomamma vegana. Guarda che sei incinta, almeno un po' di formaggio. Vegana? Allora dovrebbe integrare con un multivitaminico. Lei è quella che mangia strano, vero? Non mangia derivati animali, nemmeno le uova? Finché rischiavi la tua salute era un conto, ma ora devi pensare anche a quella del bambino. In 9 mesi me ne sono sentita dire tante. Purtroppo ho notato che le peggiori sono arrivate da medici, cioè proprio da esponenti di quella categoria professionale che avrebbe dovuto appoggiarmi e guidarmi al meglio nei cambiamenti anche alimentari che inevitabilmente ho attraversato durante la gravidanza. Purtroppo anche i medici non sono esenti da pregiudizi e dalla tendenza a considerare scienza quello che non è altro che una consuetudine alimentare. Per fortuna siamo nel terzo millennio ed esiste internet, dove è facile trovare forum di genitori vegetariani e vegani o siti che offrono consigli medici sull'alimentazione senza derivati animali. La bella notizia è che ho incontrato anche medici, ginecologi e ostetriche che non hanno osteggiato la mia scelta, a partire dal medico dell'ASL, che semplicemente guardando il mio aspetto definì la mia alimentazione adeguata nella mia scheda personale. Inoltre ho avuto il sostegno di amici, marito e famiglia, peraltro rassicurati dalle mie analisi del sangue, sempre nella norma. Perché diciamocelo, una buona arma da portare in tasca contro gli scettici carnivori sono analisi perfette o ancor meglio il tesserino da donatore del sangue. Assodato che nonostante la gravidanza non sarei morta, anche con la mia dieta a base di vegetali, quello che i detrattori chiamano erba, gli ultimi timori di dare alla luce un esserino rachitico e sottopeso si sono attenuati con la seconda ecografia, che mostrava un bambino in salute, per spegnersi definitivamente dopo l'ultima, che mostrava un bambino paffutello e di dimensioni vicine al limite superiore di lunghezza e di peso. I mesi di gravidanza hanno accresciuto la consapevolezza mia e dell'intera famiglia. L'alimentazione veg per noi è anche un modo per lasciare questo mondo un po' migliore di quello che abbiamo trovato, quindi abbiamo cominciato a riflettere sui nostri consumi, decidendo ad esempio che avremmo utilizzato i pannolini lavabili al posto degli inquinanti usa e getta, o che avremmo chiesto in prestito ad amici con figli più grandi tutti i vestitini e gli oggetti necessari per non aumentare la quantità di rifiuti prodotti nei primi mesi di vita di un neonato. Ad agosto dello scorso anno ho aperto il blog mammavegana.blogspot.com, in cui ho raccontato le vicissitudini mie e di quello che chiamavo Robino, cercando di essere ironica ma al contempo mostrando che vegano si può, anche in gravidanza. Grazie al blog ho scoperto di non essere sola, ma che le mamme vegane, vegetariane o aspiranti tali sono più di quanto solitamente si pensa. E, strano ma vero, sono tutte in buona salute. Anzi, come scrive un'amica blogger, da vegan non avrai nessuno di quei problemi ahimè tanto frequenti per le onnivore. Niente stitichezza e quindi niente vene varicose o emorroidi, niente acidità di stomaco e reflusso, niente diabete gestazionale, niente pressione alta. Attraverso il blog sono stata contattata da mamme e donne, chissà perché, solo da persone di sesso femminile, che mi hanno chiesto suggerimenti pratici per avvicinarsi all'alimentazione veg e tabelle nutrizionali per scegliere i cibi e le combinazioni migliori. Ogni volta ho risposto indirizzando verso il forum di informazione alimentare ed il sito della Società Scientifica di Nutrizione Vegetariana, entrambi decisamente più attendibili di una semplice blogger che preferisce limitarsi a raccontare la propria personale esperienza. Anche in ospedale, nei 2 giorni di degenza, è stata rispettata la mia scelta vegana, nonostante non fosse ben chiaro a tutti il significato del termine. La sera del secondo giorno, infatti, l'inserviente mi propone un piatto di seppiolini in umido. Al mio rifiuto, perplessa, mi dice: «Ah, non le mangia? Ma è pesce! Di solito le nostre pazienti vegetariane il pesce lo mangiano!» Per fortuna, poco dopo, dal carrello esce inaspettatamente un ricco piatto di legumi. Valerio è nato a fine febbraio, alla nascita pesava più di 4 kg e si è subito dato da fare per crescere ulteriormente in larghezza e in lunghezza. Ora ha appena compiuto 4 mesi ed è doppiamente vegano, perché mangia solo latte prodotto apposta per lui da una mamma della sua stessa specie e non è rubato a un vitellino. E poi perché la mamma continua tuttora ad essere vegana. Anzi, a dire il vero, oggi lo sono ancora più convintamente. Vivendo ogni giorno la gioia ma anche la fatica dell'allattamento e considerando più preziosa dell'oro ogni singola goccia di latte che esce dal mio seno, nel latte di mucca non vedo più solo una generica sofferenza, ma percepisco sulla mia pelle il furto perpetuato ai danni di un'altra mamma. E non ha importanza che sia una mucca e non una donna. E visto che abbiamo affrontato il tema dell'alimentazione vegana e della gravidanza vegana, possiamo dare l'anticipazione che a settembre uscirà il libro Veg Pyramid Junior, la guida vegetariana in età pediatrica, scritto da Luciana Baroni, Leonardo Pinelli e Ilaria Fasan, proprio dedicato all'alimentazione nell'infanzia, edizioni Sonda. Visti da vicino. Non mangio mai qualcuno che conosco. William Henry Hudson, uno dei più grandi studiosi di ornitologia, rimase affascinato, come molti di noi, dalla fedeltà delle oche. Raccontò una storia particolarmente commovente, sentita da un uomo che allevava pecore in una regione selvaggia e desolata a sud di Buenos Aires. Un giorno quest'uomo era uscito a cavallo, poco dopo che gli storni erano volati verso sud, quando vide in lontananza davanti a sé, in mezzo alla pianura, una coppia di oche. La femmina camminava con passo fermo verso sud, mentre il maschio, in piena agitazione, chiamandola a gran voce di tanto in tanto, camminava davanti a lei e continuava a voltarsi a guardare e chiamare la compagna. Poi il maschio prendeva il volo e guardava ancora dietro di sé per controllare se la compagna lo seguiva. Purtroppo lei non poteva, aveva un'ala spezzata. Era partita per il lungo viaggio verso le isole Falkland a piedi. Lui non voleva lasciarla, così dopo qualche centinaio di metri atterrava e l'aspettava. Volava un po' in avanti per mostrarle la strada, poi ritornava di continuo chiamandola con i gridi più furiosi e penetranti, insistendo perché spiegasse le ali e volasse con lui verso la loro casa lontana. L'uomo conosceva il loro destino. In quel modo triste e inquieto viaggiavano verso una fine ineluttabile. Non appena una coppia o una famiglia di aquile li avesse scorti da molto lontano, due viaggiatori lasciati indietro dai compagni, uno in volo e un altro in marcia. E il primo avrebbe dovuto proseguire il viaggio da solo. Le oche hanno vincoli familiari addirittura più forti dei cigni. Tendono a rimanere coniugate o accoppiate, come dicono gli scienziati, per tutta la vita, che è lunga. Un'oca canadese in cattività ha vissuto per più di 32 anni, ma alcuni esperti ritengono che il matrimonio fra due oche selvatiche possa durare quasi 100 anni. Sono noti i casi di oche cinquantenni che continuano a riprodursi. Le oche soffrono per la perdita del compagno? Certo, Conrad Lorenz non aveva dubbi al riguardo. E nemmeno noi dovremmo averne. Wiki abita a San Mauro, vicino a Signa. È un'oca cignoide che vive felice e libera in una dimensione domestica a casa con Alessandra e Iari. Sono ragazzi che adorano gli animali e mi sono parsi affidabili fino all'inverosimile. Gli affiderei volentieri i miei 5 gatti, se ne avessi bisogno, senza alcuna remora. Siamo andate a intervistare Wiki e a sentire un po' com'è per questi due umani vivere con un'oca. Se stringe troppo la puoi sgridare, se stringe troppo ti devi dire no. No, Wiki, no, no, ha capito. Questa è Wiki, è un'oca cinese cinese, è nata a giugno del 2008, perciò ha fatto adesso 4 anni. L'ho presa quando aveva poco più di una settimana, anzi un pochino meno di una settimana, era molto piccola perché volevo un animale da poter abituare ai miei ritmi, alle mie esigenze. Infatti quando l'ho presa, siccome ne ho presa una sola, tutti dicevano guarda stai attenta perché potrebbe morire da sola senza la mamma. Allora ho dormito per quasi 2 mesi con l'oca sul comodino accanto al letto. Com'è andata questa convivenza? È andata benissimo, ha dato tante soddisfazioni perché è venuto un animale speciale secondo me, perché lei è quasi convinta di essere un cane, si comporta come un cane, fa più guardia del cane, risponde al suo nome, è abituata a stare in casa, ha una cuccia. La sera viene a dormire, la prendiamo e dorme in salotto, c'ha una cucina tutta chiusa con il trucciolo in fondo, non ama stare fuori d'inverno quando è freddissimo, fa la giratina, gli piace stare in casa, convive abbastanza bene con i cani, fa lei quasi da padrona e è bella da vedere, ma è proprio bello viverci insieme perché tutti pensano che le oche siano animali un po' stupidi, poco intelligenti. Secondo me, se uno sa apprezzarli, non sono così stupidi. Prima perché ti riconoscono. Se uno conosce la vita che fanno le oche vivono in branco, hanno bisogno di una comunità. Lui ha preso me e mio compagno come il suo bianco, ci riconosce, ci viene incontro. Con voi che non vi conosce, senti che fa la guardia, ci mette in guardia. È in allarme. È in allarme. Con noi viene, ci gira intorno, vuol mantenere le sue distanze perché a meno che non sia lei a voler essere accarezzata, a voler essere coccolata, mantiene le distanze, però ci gira sempre torno. La sera quando la chiamiamo per rientrare in casa viene tranquillamente chiamandola per nome, non sì, che insomma non mi sembra un animale così stupido come normalmente. È intelligente come un'oca. È intelligente come un'oca. Perché proprio Wiki? Inizialmente mi ero già fatto un film, avevo già scelto il nome, la volevo chiamare Ginevra. Ero convinta di chiamarla Ginevra, poi quando siamo andati a prenderla, ovviamente era talmente piccola e non sapevamo se fosse un maschio o una femmina, e allora lì abbiamo dovuto scegliere il nome, ricambiare tutto, perché non mi sembrava bello chiamarla Ginevra se poi veniva un maschio. E allora alla fine è andata per lui. Senti, i tuoi vicini che cosa dicono rispetto ai rumorini che fanno? Allora, diciamo che sono ovviamente tolleranti, poi di solito c'è da dire che lui non si sente durante il giorno, perché lei questi rumori li fa giusto se c'è qualcuno che non conosce e invade il suo territorio. Infatti chiunque si avvicina al cancello, lei avverte, comincia a far rumore e avverte, perciò se la tengo davanti è ovviamente più rumorosa, dietro è il suo ambiente, vede meno persone, sta tranquilla. La sera d'inverno, ad esempio, per dirti quanto è intelligente, è un po' viziata perché ha un imprinting molto umano lei. La sera d'inverno, che comincia a calare il sole abbastanza presto, se noi non la facciamo rientrare in casa non ce ne possiamo scordare, perché lei prende e comincia a fare qua, ti chiama, fino a che non la mettiamo in casa a cucina sua. Oppure quando vuol far l'uovo, siccome lei è una femmina, è viziatissima, perché i primi anni voleva far l'uovo sul divano. Stava in giardino, quando arrivava il momento di fare l'uovo, cominciava a chiamare, a girare intorno alla porta, finché non si apriva la porta e andava sul divano a far l'uovo. Ora invece è cresciuta e allora l'uovo lo fa dentro la sua cuccia per benino. Quando era piccolina, che ancora era proprio col peluche da paperino, una volta siamo andati io e mio ragazzo a un torrente che c'è qua giù vicino e portavamo con noi i nostri cani. Portiamo con noi anche Wiki. È stata una giornata bellissima perché Wiki ha visto il fiumiciattolo, è andata a fare il fiumiciattolo e noi percorrevamo il fiumiciattolo dentro l'acqua con i cani e lei ci nuotava dietro e era uno spettacolo, era bellina. A volte c'era il fiume con la corrente un pochino più forte, tornava indietro, lei si impegnava per raggiungerci, era sì, ci viene proprio dietro con un cagnolino. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. Per la non rubrica di oggi, il pasto sgarbato, zucchine tonde ripiene alla vegana. Ingredienti per 4 persone: 8 zucchine tonde medie, mi raccomando, locali, 125 g di seitan al naturale, un paio di fette di pane raffermo, senza crosta, mi raccomando, una tazza di latte vegetale non dolcificato, soia, avena, riso, uno spicchio di aglio, 2 cucchiai di olio Evo, come direbbe Giuseppe, prezzemolo tritato a piacimento, pan grattato, facoltativo, e formaggio vegetale tagliato a cubettini piccolissimi, anche questo è facoltativo. Mettere il pane in ammollo nel latte, anche un'oretta prima, lavare le zucchine bene, mi raccomando, e rimuovere la parte superiore con un coltello. Le zucchine terrose fanno abbastanza schifo, mi raccomando, quindi di strusciarle bene. A questo punto svuotarle con uno scavino o con l'aiuto di un coltellino affilato detto spelucchino e di un cucchiaino. togliere delicatamente tutta la polpa lasciando un po' di bordo e facendo attenzione a non sfondarle. Sto parlando delle vostre zucchine e delle vostre mani. Cuocere per 20 minuti a vapore le zucchine svuotate, nel frattempo sminuzzare a coltello, mi raccomando, la polpa delle zucchine, farle saltare dolcemente con l'olio evo e lo spicchio di aglio, accendere il forno in modalità statica a 200 gradi e mentre le zucchine sono sul fuoco tritare il seitan, possibilmente con il coltello, altrimenti se siete un po' sfaticati bastano pochissimi secondi nel frullatore. Per gli stoici che ancora mi stanno seguendo, aggiungere il seitan alla polpa di zucchine e continuare la cottura per 5-7 minuti. Togliere dal fuoco, eliminare l'aglio e mettere tutto in una ciotola. Per chi avesse del formaggio vegetale, questo è il momento per metterlo. Strizzare il pane e aggiungere alla farcia sbriciolandolo con le dita. Aggiungere il prezzemolo tritato e mescolare bene. Attenzione al sale, la quantità giusta non esiste, dipenderà da quanto è salato il seitan, quindi assaggiate, assaggiate, assaggiate. Appena le zucchine non avranno più la temperatura della lava, mi raccomando, attenzione, togliere l'eventuale acqua all'interno capovolgendole per un attimo. Riempire le zucchine con la farcia, aiutandovi con un cucchiaio e pressando leggermente e se volete spolverateci sopra del pan grattato, ma solo sul ripieno. Preparare una teglia dei bordi alti, mi raccomando alti, altrimenti tutto l'olio schizzerà fuori e si posizionerà in quei posti dove sarà impossibile pulirlo successivamente. Ungetela, mi raccomando, mettere le zucchine ripiene nella teglia e cuocere per 40 minuti. Fine. Non mi riesce, io non sono la Cledici, non mi riesce. Nota di metodo: suggerirei ai cuochi e alle cuoche di aggiungere sempre alle loro ricette un piccolo glossario. Per esempio, in questo caso io non ho alcuna idea di cosa sia uno spelucchino, di cosa sia uno scavino e di cosa sia una farcia. Ho anche difficoltà a reperire in casa mia un coltello affilato e in quei giorni addirittura una ciotola. Sostiene Vallauri. It's been 7 hours and 15 days. Il progetto Grande Scimmia è un vecchio grande progetto dei primi anni 90, la manomissione dalla schiavitù di intere specie, e cioè delle tre o quattro specie più vicine a noi, antropomorfe, gli scimpanzé, i gorilla e gli oranghi. È un progetto che nasce da un grande libro e si fonda su una constatazione, cioè la cuginanza stretta tra noi e questi animali. Sono, loro dicono, persone certamente senzienti, certamente intelligenti, autocoscienti, decisamente transistintive, con un comportamento individuale, non generico, hanno vita relazionale, sociale, ricca vita emozionale, e quindi tutte le volte che si usa persona per un uomo cercando di spiegare cos'è la persona, queste caratteristiche si applicano anche a loro. Io non amo la terminologia persona, e che è molto dicotomica, non si sa bene cosa voglia dire, ci sono persone giuridiche come le società per azioni prive di soggettività. Io preferisco appunto soggettività graduale, non o tutto o niente. Certamente le antropomorfe hanno una elevatissima, tra virgolette, soggettività. Valutandola però, secondo me, non dobbiamo cedere al pregiudizio antropomorfico, cioè uno sta tanto più in alto quanto più ci somiglia. Certamente è anche vero che sono quasi dei cospecifici, che noi siamo il terzo scimpanzé e anche la somiglianza ha un'importanza, ma io non credo che dobbiamo basarci sulla somiglianza. Per esempio, la tutela degli animali in base alla loro bellezza, alla loro biodiversità, al valore, è quasi più interessante ai diversi che ai simili. Invece non capisco bene una cosa: ci sono animalisti che dicono estendere i diritti ai non uomini è antropocentrico, ma io dico magari si estendessero agli animali i diritti. Il fatto che i diritti siano conferiti dall'uomo non toglie che sono diritti che gli animali avrebbero tutto l'interesse ad averli. I diritti devono essere commisurati alla etologia, e allo studio del comportamento animale nelle migliori condizioni ambientali possibili. È assurdo basarsi su valutazioni della soggettività di animali in gabbia o sottoposti a esperimenti. Bisogna vederli nel loro ambiente. Incontrare altri animali, dice la zooantropologia, è come incontrare altre culture. Con tutto il rispetto per i padani, io credo che i padani, già incontrando gli italiani, accrescono la loro intelligenza, e tanto più incontrando degli islamici o dei cinesi. Quindi abbiamo veramente tutto l'interesse a una estensione della nostra curiosità e a un arricchimento, questo in prospettiva antropocentrica, però prevale nettamente il diritto, usiamo pure questa parola, il diritto di questi esseri al proprio sviluppo. Devo dire che da questo punto di vista il progetto Grande Scimmia chiede perfino troppo poco, perché parla soprattutto del diritto alla vita, del diritto alla libertà e del diritto alla non tortura. Oggi, anche per animali non così simili a noi, si parla di diritto a una vita degna, di diritto alla realizzazione delle capacità, cioè ci sono prospettive simili a quelle che prevede l'articolo 3 secondo comma della Costituzione italiana per gli uomini, il pieno sviluppo della persona, indipendentemente dalla terminologia persona. Io credo che se c'è qualcosa di un po' vecchio nel libro è proprio la scarsità delle esigenze. Mi pare che nei 20 anni magici, diciamo, dell'animalismo, dal 90 al 2010, si siano fatti dei progressi notevoli fino all'articolo 13 del Trattato di Lisbona, il quale tanto più ovviamente si applica alle grandi antropomorfe. Il dubbio non è se proteggerle, il dubbio è se proteggendole in un modo particolare, organizzando loro tutori, istituzioni internazionali che li ricollocano in ambienti favorevoli, eccetera, non si legittima lo stato arretratissimo di tutela degli altri animali, quelli cacciabili, pescabili, allevabili in modo non disumano ma troppo umano, macellabili e vivisezionabili. Io credo di no, ma se l'obiezione principale è la preoccupazione per le altre specie, credo che possiamo affrontare questo argomento quando trattiamo di abolizionismo o integralismo e riformismo o posizione moderata dell'animalismo. Abbiamo sotto gli occhi due pubblicità che candidiamo volentieri al premio cinico dell'anno. Forse dovremmo davvero istituire un concorso del genere e poi premiare i vincitori, se vogliamo chiamarli così, con un bel filmato ripreso dentro un mattatoio o in altro luogo di segregazione e morte, con obbligo di visione in azienda. La prima pubblicità è di Mercedes-Benz. I nomi in questo caso li facciamo, giusto per dare a Cesare quel che è di Cesare. E ha come slogan «Abbiamo eliminato il tasso». L'immagine propone un tipo che cerca di atteggiarsi a uomo di fatica, con una pala in mano. Al suo fianco c'è una buca in terra, ricoperta, e lascia intendere che un tasso, inteso come animale, è stato ucciso. Davvero una bella impresa. Naturalmente tutto si gioca sull'equivoco del doppio significato della parola tasso. Come trovata non è granché. E teme pochi rivali in quanto a cattivo gusto. Segno forse che la recessione sta colpendo anche i creativi della pubblicità, evidentemente a corto di idee. D'altra parte c'è un attenuante. Di questi tempi, convincere qualcuno a comprare l'ennesima scatola di ferrame con motore a scoppio è davvero un'impresa da mal di testa. E questi, evidentemente, sono i frutti. L'altra pubblicità è di casa nostra, parliamo della Mucchi. Anche qui si vola piuttosto basso in termini di originalità. E la brillante idea pubblicitaria è la riproposizione di un ambiente bucolico. Stavolta i figuranti sono padre, madre e figlia, vestiti con improbabili accappatoi, ma con l'aggiunta di una mucca, anche lei in accappatoio. Dal punto di vista estetico, aiutateci a dire quanto è banale e insulsa questa immagine. E dal punto di vista etico proprio non ci siamo, tanto più che la scritta sotto la famigliola con bovino aggiunto è «latte di famiglia». Nessuno ovviamente ha pensato di prendere in considerazione la dignità della mucca, che è stata sfruttata e destinata a breve vita per produrre latte mucchi, e poi viene sbeffeggiata sui muri della città. Scriveremo alla Mucchi per suggerire la prossima volta di considerare almeno il diritto degli animali a non essere derisi. Purtroppo non siamo in una fiaba, come l'immagine vorrebbe suggerire, perché una fiaba che si rispetti ha sempre il lieto fine. E invece, in questo caso, come frase finale, dovremmo dire: e non tutti vissero felici e contenti. E la prossima puntata sarà l'ultima e sarà in diretta. Aspettiamo le vostre telefonate con commenti, domande, perplessità, anche critiche, domenica 1 luglio alle ore 12 in diretta dagli studi di Controradio. Preparatevi psicologicamente e organizzatevi col ditino nervoso e agile su tastiera sbloccata. O preimpostate il numero 055-73-99933 per una inebriante esperienza della diretta radiofonica Cruelty Free. Fotografie, interviste, ricette, playlist, approfondimenti varie ed eventuali nel nostro blog restiamoanimali.wordpress.com o nella homepage di controradio.it. SOS, domande, suppliche, outing ed esperienze personali più o meno rassicuranti al nostro indirizzo di posta restiamoanimali@controradio.it. Gli animali non sono pupazzi. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Ogni domenica alle 12 su Controradio e nel quinto elemento su controradio.it. Contatti restiamoanimali@controradio.it. Con il contributo di Terra Nuova, il mensile di ecologia pratica da sempre dalla parte degli animali.